Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Certo che fa male scoprire che per avere ragioni delle mafie occorrerà sferrare un'offensiva di medio-lungo periodo, mettendo in campo risorse adeguate e combinando ciò che oggi è invece sterilmente disgiunto, e cioè la forza della repressione con la forza dello sviluppo economico e del rinnovamento sociale. Nero su bianco è quanto scrive Beppe Pisanu nella relazione sulla penetrazione delle mafie nell'economia della Commissione parlamentare antimafia. E se non lo sa lui, che è il presidente della commissione, non so a chi altri dovremmo credere. Fa male scoprire che siamo, non dico all'anno zero, ma insomma. Certo, la commissione antimafia ha ragione nel battere sul nervo scoperto. Senza sviluppo economico, come può il Sud allontanare l'ombra lunga delle mafie? Solo il Sud? Eh no, ragazzi miei. Una parte, invero, molto interessante della relazione è quella relativa alla cruciale e fruttuosa missione a Milano che la Commissione parlamentare antimafia ha condotto il 21 e il 22 gennaio 2011. Cruciale perché Milano, capitale economica d'Italia, non può non essere obiettivo dell'espansione economica delle mafie di ogni tipo e di ogni provenienza, sempre interessate a qualunque fonte di arricchimento, con strumenti leciti o illeciti. Certo però il grande evento è Expo 2015. L'elenco delle opere previste fa percepire concretamente che è in arrivo su Milano una marea di denaro pubblico, stimato fino a 25 miliardi tra opere e costi diretti, ossia creazione degli spazi espositivi e gestione, che rappresentano tuttavia la voce minore, pari a 4 miliardi circa, e costi indiretti, le infrastrutture connesse. Per questo Expo 2015, afferma la Commissione parlamentare antimafia, rappresenta una vera e propria emergenza di legalità per i concreti e notevoli rischi di infiltrazione delle imprese mafiose nelle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori. Grazie in regia a Filippo Oreggi e in studio a Luca Cremonese. Buona vita e a domani.